Assessore, com'è andato questo comitato straordinario? Che novità ci sono per la città? Ma intanto abbiamo avuto assicurazioni da parte del commissariato dei rifiuti che appunto i conferimenti dei rifiuti sono ripresi e non solo non si sospenderanno in previsione, ma crescerà molto di più la possibilità di conferire grazie al dissequestro di qualche sito, all'aumento delle capacità di raccogliere frazione organica dalla discarica di Serre e nello stesso tempo l'entrata in regime dei trasporti su treno per la Germania, insomma, e quindi questo evidentemente consentirà non solo di andare di raccogliere 7.000 tonnellate, ma molto probabilmente in tutta la regione, ma andare oltre e dunque recuperare anche l'accumulato di questi mesi. 4.000 tonnellate, 4.500 insomma, a terra a Napoli non sono poche, anche se ci sono state delle attività di raccolta in queste notti. L'esasperazione della gente è tanta, un appello da fare? L'appello che rivolgo ai cittadini, essendo ormai ripresa, diciamo, la raccolta, perché essendo stati consentiti i conferimenti, noi stiamo lavorando a ritmo continuo, non inarrestabile, e dunque è un invito ai cittadini a collaborare avendo ulteriormente pazienza e fondamentalmente a non appiccare fuoco ai cumuli di rifiuto, perché questo produce diossina e produce danno, non solo, ma il danno che produce che questi rifiuti una volta incendiati non possono essere immediatamente rimossi, ma devono essere tenuti in strada, quindi si fa peggio, non solo, ma l'invito è anche a non creare ulteriori disagi alla raccolta, perché questo rallenta le attività e ritarda anche il recupero che noi stiamo facendo con tanto sacrificio anche di tanti lavoratori dell'azienda del Comune di Napoli.